Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Il fatto è che tu non ti accorgi più di me. Non è vero. Ma come non? Non è vero, non ti accorgi, non ti sei neanche accorto che mi sono tagliati i capelli di 1,5 mm. Tu non ti accorgi più di me perché pensi sempre al lavoro, ecco la verità. Te non mi capisci, io parlo d'amore e tu non mi capisci. Allora forse dico, forse il sentimento, la passione, cose va bene e tu non mi capisci. Allora io dico, forse è la nostra storia, metto l'impegno e quasi questo va bene, la palestra e che si figludi e che se fai i sacrifici, questo e questo non mi capisci. Io se ne vuoi, che se ne vuole, tu non mi capisci, tu non mi capisci. Io ho voluto stare le e tu non mi capisci, ma se parli così chi te capisce? E a chi non è capitato di essere frainteso, non compreso, di avere difficoltà a entrare in relazione con l'altro, di avere qualche problema nel capire e nel farsi capire? Basta poco, un silenzio, un'esitazione, uno sguardo, un rossore improvviso, un sorriso abbozzato, sembrano dettagli, ma al momento buono fanno la differenza, perché lo sappiamo bene, anche se al momento buono ce ne dimentichiamo, oltre alle parole c'è di più. Altro, e di questo parleremo oggi. Intanto saluto il professor Francesco Padrini, psicoterapeuta e autore del Linguaggio segreto del corpo e del volto, De Vecchi Editore, appena uscito nella nuova edizione. Buongiorno, certo, buongiorno professore. A tutti gli ascoltatori. Professore, si dice la prima impressione è quella che conta, e infatti a volte basta un'occhiata per capire se la persona che abbiamo davanti ci piace o non ci piace, ci fa simpatia o antipatia, ci incuriosisce, ci lascia del tutto indifferenti. È così, è un po' un istinto, in questo assomigliamo agli animali. Il mio cane, ad esempio, ha delle simpatie e delle antipatie a fiuto. Ci sono dei cani che gli piacciono, va vicino, scodinzola, e dei cani che non può vedere. Ma, e quindi un po' io gli assomiglio. Ma c'è chi si concentra su un dettaglio, c'è chi invece guarda, osserva i gesti, la stretta di mano classica, c'è invece chi lavora con uno sguardo di insieme. Tre modi di relazionarsi, di farsi un'idea dell'altro, di cogliere i segnali del corpo, del linguaggio non verbale, che ci raccontano anche qualcosa di noi. Certamente, perché sappiamo che il corpo non mente, e le persone che sono magari più attente al dettaglio, alla specificità della grandezza di un recettore, che sono gli occhi, il naso e la bocca, sono persone che tendenzialmente sono più analitiche, più precise e guardano il particolare, sono persone un po' più portate al mondo scientifico. Sì. Mentre c'è la persona che invece guarda, è più portata alla visione d'insieme, questo non vuol dire che non abbia anche l'aspetto analitico, certo, perché tutti abbiamo queste componenti, però è portata a vedere più le cose nella sua grandezza generale, quindi relativizza alcuni aspetti e alcuni particolari, e questa è una dote che un po' tutti abbiamo. Ma quello che è molto interessante è vedere come alcune parti del corpo, per esempio la fronte, una fronte piccolina o ristretta, diciamo alla Maradona, può essere vista per esempio in modo molto positivo. Non è più, bisogna sfatare quel mito fronte grande, intelligente, fronte bassa, no, perché la fronte per esempio molto ristretta è una fronte da specialista che si focalizza molto bene sul particolare, sulla focalizzazione che deve fare nel qui ed ora in quel momento, mentre una fronte con una fronte molto spaziosa, con una grande visione d'insieme, è portata a vedere le situazioni in lungimiranza, negli aspetti più generali, nella loro grandezza. Vedo che mi sta osservando, non so se essere preoccupata o se tranquillizzarmi. 800 24 00 24, oggi parliamo di linguaggio non verbale, linguaggio del corpo, un linguaggio che dobbiamo imparare a conoscere per conoscere meglio noi stessi e naturalmente leggere anche qualcosa della persona che abbiamo di fronte. Stretta di mano è fondamentale. Il suo biglietto da visita, stia a vedere. Stretta di mano rapida, decisa, sicura, è sintomo di sicurezza e autostima. Ma se non la sciolgo per tempo, diventa una stretta di mano infinita, sintomo di invadenza. Capisce quello che intendo? Silvano, non è difficile. Tom Vail dice che la stretta di mano è il gioco di squadra che si fa rituale. Cinque dita si concentrano contemporaneamente intorno ad uno stesso obiettivo come una squadra e incontrano un'altra squadra di altre cinque dita. Avanti, stringimi la mano come farebbe Tom Vail. Mano tesa verso il futuro e sorriso pieno di ottimismo. Non lo ascoltare, informale, disinvolto e figo. E allora raccontateci quali sono i gesti, i dettagli che vi fanno entrare in sintonia con una persona, che ve la rendono simpatica, che vi ispirano fiducia, ma anche raccontateci quali gesti, atteggiamenti invece vi allontanano, quelli che vi insospettiscono, vi urtano, vi maldispongono. Troveremo una spiegazione e anche una soluzione e una indicazione. Diteci, raccontateci di voi, che cosa fate, che cosa guardate, e noi chiederemo a un grande esperto, amico di Essere Benessere, che qua in studio con me, Andrea Ribaldone, Executive Chef Italy Tokyo. Ciao Andrea. Ciao Nico e ciao a tutti gli ascoltatori. Chiederemo ad Andrea di abbinare un piatto, una cottura. Sembra una cosa un po' strana questo abbinamento. Guarda, dai gesti alla cucina, ma in effetti le emozioni si declinano in molti modi. Guarda, non è per niente forzata, perché un cuoco è sempre attento ai dettagli e soprattutto è attento ai dettagli dei clienti, e spesso vai al tavolo e ti chiedono faccia lei, e lì devi essere capace di capire cosa il tuo cliente si aspetta e di rispondere con un piatto adeguato. Io, guarda Nico, sai cosa guardo? Le scarpe, perché le scarpe sono quel dettaglio che spesso rivela se una persona è estrosa, e quindi probabilmente cosa si aspetta anche dal cibo. A me questo è un particolare che io guardo molto. Cosa c'è da preoccuparsi del professor Padrini? Mi sorprende come un cuoco abbia un'attenzione selettiva proprio nel punto del corpo, i piedi, quindi le scarpe, dalle quali noi possiamo essere traditi dal nostro linguaggio, perché noi possiamo mentire a volte meglio col viso, ma non con i piedi. È verissimo. Qui in studio con me c'è il professor Paolo Cavedini, psichiatra e professore alla scuola di psichiatria all'Università di Firenze. Buongiorno. Buongiorno a tutti e bentrovati. Dicevamo che il corpo non mente, purtroppo parla senza che noi non ce ne accorgiamo. Facciamo dei gesti, abbiamo dei movimenti che parlano e che noi proprio facciamo quasi senza accorgercene. È vero, mentre le parole sono un prodotto volontario e quindi sono controllabili dal nostro cervello, i gesti sono una reazione istintiva a degli stati emotivi, a delle tensioni, e quindi in qualche modo accadono senza che noi lo vogliamo. Arrossire se ci sentiamo uno stato di vergogna, piuttosto che sudare le mani se ci troviamo in imbarazzo, sono dei gesti e delle situazioni che non possiamo controllare nemmeno se ci sforziamo. Alcuni di questi meccanismi sono inconsapevoli, altri invece sono un po' più consapevoli. Ci rendiamo conto se diventiamo rossi, ma ad esempio non ci rendiamo conto di come ci posizioniamo rispetto alle persone che abbiamo davanti all'interno di un momento, di una discussione. La distanza che abbiamo con le persone, questa è un'indicazione molto importante. Ci sono persone che si avvicinano molto, quasi a toccare l'altra persona, e invece interlocutori che rimangono molto distanti, e quindi la distanza che intercorre tra noi e la certo. persona con cui parliamo è un dettaglio fondamentale. E dipende anche dalle situazioni in cui ci troviamo. Perché evidentemente il moroso ci si avvicina. Ci si avvicina, a volte la troppa vicinanza è un sinonimo di invadenza, come un po' si risentiva prima nel pezzo sulla stretta di mano, no? Ci sono gesti che cambiano a seconda del contesto. Allora, noi aspettiamo come sempre le vostre telefonate all'800 24 00 24, una puntata giocata sui dettagli, sulle emozioni, ma anche sul gusto. E raccontateci di voi, di che cosa guardate, di che cosa vi piace, di che cosa vi dà fastidio. Proveremo a trovare una soluzione, un'indicazione, un racconto per voi importante per capire qualche cosa di più, ma insieme ad Andrea Ribaldone troveremo anche il piatto che magari più vi rappresenta. Che dici, Andrea? Benissimo, proviamo. Professor, diteci magari che scarpe avete. Ad esempio, un ascoltatore mi scrive a proposito di stretta di mano: non sopporto la stretta di mano cardinalizia. Professor Padrini, che stretta di mano è un po' scelta? È una stretta di mano dove non vuole trasmettere una dominanza, ma tende a essere comprensiva, e a volte trascende anche in un elemento che può essere frainteso come sottomissione, e questo non piace al manager, non piace alla persona che è abituata a una stretta di mano d'affari, che generalmente è una stretta di mano impositiva, che ha molto spesso una componente di dominanza. Bisogna stare attenti però, ahimè, a non essere troppo dominanti, perché molto spesso accade che il palmo della nostra mano può tendere, se siamo dominanti, a sottomettere, a girare la mano dell'altro. E questo è un aspetto che, beh, è errore per chi subisce, ma è vittoria per chi agisce. Professore, tra l'altro, come lei scrive nel suo libro Linguaggio segreto del corpo e del volto, ci sono parti del corpo che noi riusciamo a controllare un po' meglio di altre, più facili da disciplinare, e sulle quali noi facciamo affidamento quando mentiamo, smascheriamole, perché è facile atteggiare il volto, ma ci sono delle parti invece che ci sfuggono. Ecco, difatti la parte, stranamente, strano a dirsi, però, che nella quale noi riusciamo a mentire meglio è proprio il viso, perché il viso lo conosciamo, molto spesso riusciamo a, davanti allo specchio, a prepararci, a inibire certe espressioni, e certamente questa espressione, l'espressione vera, emerge dall'inconscio, come dicevamo prima, dalla motilità, però questa espressione viene subito corretta in una frazione di secondo nell'espressione che noi vogliamo, quindi col viso ce la caviamo, ma ahimè, scendiamo nella parte bassa del corpo, diceva prima il nostro grande chef, e più diventa difficile mentire, perché con le braccia, col busto, col tronco, col busto e soprattutto con le gambe, lì si svelano molti segreti. O è delle braccia. Da queste parti che arriva la fuga di informazioni. Sì, da queste parti, perché per esempio mani troppo bloccate hanno lo stesso significato di mani che si muovono in modo molto nervoso, che aumentano questi contatti mano-viso, e quindi dall'aspetto delle articolazioni superiori noi possiamo certamente vedere lo stato o meno di tensione della persona. E quindi, imparando il linguaggio dei gesti, professor, il linguaggio verbale, non verbale, professor Cavedini, noi riusciamo anche a capire se l'altro che abbiamo, la persona che abbiamo di fronte, mente. Lei ce la fa. Cerco di non sbagliare, ma non mi pongo spesso il problema. No, è vero, nel senso che ci sono soprattutto quelle situazioni che sono, come dire, non coordinate tra di loro, no? Per cui una parte del corpo esprime determinate situazioni e un'altra parte del corpo, oppure il tono di voce, in qualche modo no. E questa, come dire, non coordinazione tra tutto il nostro organismo è spesso un indicatore molto importante. Certo, è proprio questa non coincidenza tra il gesto e la parola. E che cosa credere? Giustamente, come dice il professore Cavedini, occorre proprio dare priorità a quello che noi vediamo, nel senso che esprimiamo con le mani, no? La solita frase del politico che abbiamo già citato, no? Bisogna fare la pace come componente di pace, verbalmente, razionalmente, però esprime i pugni, batte sul tavolo. Si vede proprio che non vede l'ora di andarsene. Perché? Dalla sua gamba sinistra, punta dritta verso l'ascensore ed è già pronta a correre fuori di qui. Anche lei conosce la comunicazione non verbale? Vedi Paolo, il linguaggio non è fatto solo di parole, si può dire qualcosa anche senza parlare. Se per esempio uno si gratta i capelli mentre parla, ha i pidocchi. Potrebbe, ma tendenzialmente sta mentendo. Un'altra cosa è giocherellare con il bicchiere del caffè. Serve a deviare l'attenzione di chi ci ascolta nella speranza che non si accorga che stiamo dicendo una bugia. E chi dice la verità? Tiene le braccia a cerchio, mostra spesso le mani, tocca lo spazio circostante, si appoggia alle pareti. Insomma, ha un po' tutto sotto controllo. Professore, c'è Cavedini, c'è un'emozione che facciamo molta fatica a mascherare, dell'ansia, che nelle sue molteplici sfumature, che vanno dalla semplice apprensione alla paura, si legge proprio nel corpo. Quando siamo emozionati, stressati, agitati, ci beccano. Se ne accorgono. Ecco. Allora, diciamo però, per cominciare, che l'ansia è una risposta normale a delle situazioni di stress e a delle situazioni di pericolo. Quindi, essendo normale, anche il corpo si comporta in maniera normale, accompagnando lo stato dell'ansia. Se noi ci troviamo in una situazione di pericolo e la nostra respirazione si modifica e diventa più intensa, piuttosto che iniziamo ad essere irrequieti, a traballare un po' sulla seggiola, è perché il nostro organismo si sta, in condizioni normali, predisponendo a gestire quella situazione di pericolo e di stress in maniera assolutamente appropriata. Il problema nasce quando lo stress e la tensione o è eccessivo o diventa disfunzionale o si presenta in condizioni in cui non ci dovrebbe essere, dove questi comportamenti e questi gesti evidentemente non hanno motivo di esistere. E quindi in quelle condizioni è facile riconoscere in situazioni non appropriate un individuo ansioso sulla base di quanto, che ne so, è irrequieto, del colore della sua pelle, piuttosto che di altre reazioni fisiologiche importanti come l'ammiccamento, lo sbattere delle palpebre, piuttosto che le deglutizioni, no? Cioè tutti i sintomi. Ci sono persone che ad esempio mettono la mano intorno al collo, senso... Ci sono tutte quelle reazioni che in qualche modo, in parte molto fisiologiche, cioè molto naturali, altre molto condizionate dal contesto, dalle situazioni in cui ci si trova, che proprio denotano l'atteggiamento di apprensione fino allo stato di paura vera. Il suo nome, prego? John C. Public. Public, ci deve essere una L in mezzo. Mr. Public, ha avuto esperienze in qualche ufficio prima d'ora? Sì, certo. Di che tipo di ufficio si trattava? Rettangolare. Ha per caso qualche esperienza nell'uso di un computer elettronico ultimo tipo? Sì, l'ho usato. In che ditta? Mia zia ne ha uno. Sua zia di che si occupa? Io non me lo ricordo. Ecco qua una situazione che genera ansia, in cui sappiamo che è meglio dare il meglio. In linea con noi abbiamo Cristina Gianotti, business coach, esperta del mercato del lavoro. Buongiorno. Buongiorno a tutti e a lei, Nicoletta. Grazie, dottoressa. Ci dà qualche dritta per fare buona figura al colloquio di lavoro? Certo. Iniziamo dalle cose da non fare. Allora, immaginiamo di doverci preparare a un colloquio, la prima cosa che ci viene in mente è come vestirci. Cosa mi metto? Certo. Cosa mi metto? Ma allora, in generale direi che bisogna far riferimento al fatto che ogni ambiente ha la sua divisa. Quindi, non so, diciamo, se lavoro in banco, se vado a fare un colloquio nell'ambiente, diciamo, finanziario, mi vestirò, diciamo, con il vestito intero. Se sono un profilo di tipo commerciale, di nuovo mi vesterò in maniera, diciamo, piuttosto elegante. Certo, rispetto, poi... diciamo, al resto dei lavoratori. Se invece sono, diciamo, magari un tecnico che va a lavorare con i blue jeans, sarebbe, diciamo, consigliabile qualcosina di un pochino, diciamo, più elegante, quindi quello che viene chiamato un business casual, magari, diciamo, non proprio i blue jeans, magari, perché, diciamo, come si dice, dottoressa giacca. Gianotti, allora in questo caso il vestito fa l'uomo monaco. E insomma, diciamo, come si diceva anche prima, il diciamo un concetto fondamentale è quello della coerenza. Sì. E quindi nella nostra società, poi in, diciamo, ciascuna cultura magari ci sono, diciamo, delle differenze, è importante la coerenza. E quindi se ho, diciamo, un certo profilo, mi propongo, diciamo, per una certa posizione, anche il vestito fa parte di questa, diciamo, comunicazione non verbale in senso lato. Abbiamo pensato all'abbigliamento, andiamo al perché è un biglietto da visita, ma parliamo del biglietto da visita, si dà o non si dà? Ma allora, diciamo, la mia posizione è che nel momento in cui io mi propongo ad un'azienda e quindi vengo intervistato per un colloquio di lavoro, sono io medesimo, non sono l'azienda per cui lavoro, quindi mi sembra inappropriato presentarmi con il biglietto dell'azienda, perché sono diciamo presente a titolo personale e non sto rappresentando la mia azienda. Quindi lasciamolo a casa. Inopportuno, lasciamolo a casa. Andiamo al contatto fisico. Parlavamo col professor Padrini della stretta di mano. Certo, Andrea Ribaldone aggiungeva un dettaglio che lui guarda sempre, che sono le scarpe, ritorniamo ancora nell'abbigliamento. E con il professor Cavedini parlavamo della distanza da tenere con il nostro interlocutore. Tre dettagli che possono essere osservati con grande attenzione da chi ci sta esaminando. Certo. Quindi la stretta di mano. La stretta di mano è, diciamo, la prima cosa, perché, diciamo, nella nostra cultura si usa, diciamo, la stretta di mano. Ho sentito il commento del professore in cui si dice, appunto, di non essere dominanti, però neanche, diciamo, succubi. Quindi effettivamente anche, diciamo, nel nostro caso del colloquio di lavoro, l'ideale sarebbe instaurare una comunicazione paritaria. Quindi non andiamo a un esame, come diciamo a scuola, e non andiamo neanche diciamo a proporci in maniera dominante. Quindi la stretta per... decisa. Sì. Insomma, per dire sono qua, eccomi. Sì. Per quanto riguarda la vicinanza, Allora, la vicinanza, in effetti anche questa diciamo dipende da ogni cultura e quindi ed è anche diciamo un'esperienza naturale di ciascuno di noi, magari in futuro ci possiamo anche fare un pensiero. Allora, sostanzialmente il colloquio è un ambiente di rapporto di tipo professionale, quindi non bisogna oltrepassare una certa soglia che potrebbe essere di sicuro non il mezzo metro e neanche il metro. Sì. Questo sia nella fase di saluto in cui magari può capitare di essere diciamo più vicini, ma neanche mentre si è seduti, perché diciamo anche pur essendo seduti e avendo un tavolo di mezzo, uno può diciamo protendersi troppo nei confronti dell'interlocutore e quindi alterare un giusto ambiente e clima per entrambe le parti. E poi, dottoressa Gianotti, prima per calmare l'ansia, perché io suggerirei ai nostri amici sicuramente una bella respirazione prima di entrare, prendersi qualche tempo, arrivare, non arrivare proprio all'ultimo momento, magari fare una passeggiata e poi ricordatevi sempre che l'ombelico deve muoversi. Dottoressa Gianotti, grazie per essere stata con noi, buonissima giornata. Grazie a voi e un saluto a tutti. Ilia ci chiama da Roma, 800 24 00 24, benvenuta e buongiorno Ilia. Buongiorno a lei signora, a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Grazie per aver chiamato. Che cosa guarda lei? Allora le spiego, io ho una difficoltà enorme se davanti a me la persona che interloquisce io non mi guarda negli occhi e io non posso guardarla negli occhi. Io ho un filo diretto per fare sì che la parola mi esca dalle labbra. Io devo assolutamente avere davanti a me la persona con uno sguardo diretto, altrimenti mi crea difficoltà di linguaggio, proprio di espressione, perché oltre alla stretta di mano immediata e ben sentita, io devo avere questo filo che mi fa comunicare con l'anima, non lo so, volevo capire la motivazione, perché se trovo una persona con gli occhiali da sole, sì, che ha gli occhiali a specchio, io non riesco a parlare, mi si blocca la parola. Allora, grazie Ilia per questo spunto, lo sguardo è assolutamente importante, forse molto di più ancora della stretta di mano. Essere e benessere. Leggo dentro i tuoi occhi, da quante volte vivi, dal taglio della bocca, se sei disposto all'odio, all'indulgenza, nel tratto del tuo naso, se sei orgoglioso, fiero oppure vile. I drammi del tuo cuore li leggo nelle mani. E a proposito di fisionomica, che impressione pensate di dare con il vostro naso, il vostro sguardo, il vostro sorriso, il vostro modo di atteggiarvi? Come vi descrivono? C'è anche un vostro modo di gesticolare che vi caratterizza? Chiamateci 800 24 00 24, potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Antonello ci chiama da Roma, Davide da Torino, Calogero da Agrigente, Maria Teresa da Bergamo. Antonello, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, grazie per aver ricevuto la mia chiamata, un saluto a lei e a tutti i suoi ospiti. Grazie a lei. Senta, la mia era una domanda abbastanza semplice. Siccome siamo un po' tutti capaci di essere pregiudizievoli nei confronti degli altri, ne facciamo in maniera molto efficace certe volte, no? Ci consideriamo, non so se migliori o non so come dire, però spesso diciamo che le persone non ci piacciono a pelle, no? È proprio quello che discutevate poc'anzi. Io per la mia piccola esperienza, io sono un agente di commercio, sì. Per la mia piccola esperienza, invece a che fare con persone con le quali comunico tutto il santo giorno, mi sono reso conto che a volte manca la comunicazione a causa del mio atteggiamento, del mio comportamento. Sappiamo che comunichiamo verbalmente molto poco, molto di più con il nostro corpo. La domanda era, facciamo autoavverare questi nostri pregiudizi nei confronti degli altri, ma non misuriamo mai i nostri, no? Quindi se esiste un consiglio per cercare di migliorare, ricorrere alla memoria nostra per dire fammi prendere questo atteggiamento piuttosto che un altro. E la seconda domanda era, visto che il mondo anche a livello commerciale si apre, no? Anche a livello internazionale, quindi i nostri rapporti oggigiorno si possono avere anche con comunità diverse. Sì. L'Italia ormai è a presenze di comunità cinesi piuttosto che dei paesi. I gesti non hanno lo stesso significato nelle varie parti delle varie culture. E tante volte forse è possibile, magari, che ne so, adoperare un atteggiamento diverso, o forse se ogni cultura ha. Allora, professor Padrini, può dare un'indicazione ad Antonello? Si fa aiutare dal professor Cavedini? Certo, vedo che l'ascoltatore ha già una consapevolezza di sé quando dice che il nostro atteggiamento condiziona quello dell'altro, perché di fronte a un nostro sorriso, a una nostra apertura, c'è la possibilità di predisporre un'altrettanta apertura. Molto spesso questo non avviene, però è già una buona modalità per poter promuovere una felice conversazione. Assolutamente sì, nel senso che il nostro comportamento condiziona decisamente il comportamento di quello che ci sta davanti, e viceversa siamo condizionati a nostra volta dal comportamento degli altri. La questione delle culture è altrettanto importante, perché parlavamo prima della vicinanza dall'interlocutore. In culture diverse questo tipo di concetto viene sviluppato in maniera molto diversa. Quindi sono d'accordo quando sostenevamo che il nostro ascoltatore ha una buona consapevolezza. Poi è ovvio che dei consigli specifici non possiamo darne, perché poi dipende da situazione a situazione, però già fare attenzione ai propri comportamenti e migliorarli è molto utile. Per quello che mi riguarda, che in questo momento sto viaggiando parecchio, soprattutto su Tokyo, quindi in Oriente, vi dico che è importante, anche quando ci confrontiamo con altre culture, essere se stessi in maniera veramente naturale, cercando di comunicare quello che siamo. Nel migliore dei modi vedrete che lo recepiranno anche culture lontane dalla nostra. Davide, buongiorno da Torino. Sì, buongiorno. Buongiorno. Grazie a lei per avermi richiamato e innanzitutto saluto tutti quanti. Io volevo fare una domanda, che mi tocca in prima persona. Io sono un giocatore di poker di Texas Hold'em, amatoriale ovviamente, mm-hmm. e mi trovo molto spesso, in una situazione, in una duplice situazione, vale a dire quella di cercare di interpretare il linguaggio del corpo, che effettivamente non mente, di altri giocatori, e allo stesso tempo, mi trovo nella situazione di cercare di mascherare il mio linguaggio del corpo, e mi rendo conto benissimo che, quando cerco di forzare, do un significato ambiguo che però rischia di essere interpretato. Quindi nulla, io volevo solo avere due indicazioni o due... Professor Padrini, lei riesce a darle a un giocatore di poker che non deve svelarsi mai? Direi che i bravi giocatori, come i bravi mentitori, non voglio associare questa cosa in modo fraudolento o malizioso, però dipende tutto dallo stato di tensione nel quale ci si trova in quel momento. L'aumento dello stato di tensione svela degli aspetti mimici, facciali, comportamentali, che presuppone un qualche cosa. Ecco, quindi il giocatore di poker è una questione di allenamento. Di allenamento anche. Andrea, cosa ti ispira? Andiamo dal poker e andiamo in cucina. Allora, il gioco del poker chiaramente è fatto di particolari, di attenzione e, come si diceva adesso, di tensione. È un po' la cucina, è anche questo, soprattutto quella professionale, stretti in uno spazio, e quando c'è il servizio, grande tensione. Anche a casa lo proverete, arrivano gli ospiti, tensione, si vuol far bella figura. Il mio consiglio è proprio questo: preparatevi prima, cercate di fare ricette semplici che avete già provato tante volte e cercate di godervi le serate e di non essere come un tavolo da poker, non essere tesi quando avete gli ospiti, sennò farete brutta figura. Essere e benessere. Quello che voglio da te è la tua voce. La mia voce? Proprio così, zuccherino. Non potrai più parlare, cantare, niente di tutto ciò. Ma senza la mia voce, come potrò? Avrai sempre la tua bellezza, il tuo bel faccino. E inoltre non devi sottovalutare l'importanza del linguaggio del corpo. Ah! Agli uomini le chiacchiere non vanno. Si annoiano a sentire bla bla bla. Sulla terra va così e le signore. Siamo tornati, abbiamo in linea con noi Calogero da Agrigente, subito dopo Maria Teresa da Bergamo, ma io intanto, nell'attesa delle telefonate dei nostri ascoltatori all'800 24 00 24, voglio lanciare al professor Cavedini un altro stimolo, sempre a proposito di gesti. Ci sono dei gesti che noi facciamo, che dobbiamo compiere per mettere a tacere una sorta di vocina che ci invita a controllare alcune cose o a farne altre. C'è chi deve salire a controllare di aver spento il gas o chiuso la porta, c'è chi deve mettere le pantofole in ordine prima di andare a letto, chi non può calpestare le fughe delle piastrelle, insomma gesti che sentiamo impellenti e che non facciamo certo né per comunicare con qualcuno, ma facciamo proprio per calmare noi stessi. Intanto che il dottor Cavedini vi può dare alcuni segnali, alcuni stimoli, e voi intanto potete anche chiamare per misurarvi su questo aspetto, andiamo a sentire che cosa ci racconta Calogero da Agrigento. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno signora Nicoletta, saluto lei e i suoi ospiti, bravissimi come sempre. Le avevo qualche quesito, insomma, che mi ponevo delle domande. Una è questa, per esempio, il giudice in un tribunale, sì, quando sono le testimonianze. Io per esempio, per motivi insomma che non so dire, ho dovuto assistere a 2 o 3 testimonianze in un processo, e io sapevo la verità. E ho visto i testi mentire in maniera spudorata, in maniera vergognosa. Però, nonostante tutto, al di là di questo, ho visto i gesti, chi arrossiva, chi calava, chi abbassava gli occhi, chi guardava da un altro lato. Evidentemente mentivano, e io lo sapevo perché ovviamente sapevo che mentivano. Ma il giudice che deve giudicare, al di là della dichiarazione effettiva del soggetto, riesce, ha fatto degli studi anche in questo senso? Il giudice ha fatto degli studi. Se già è un giudice all'ascolto, ci chiami, 800 24 00 24. Professor Padrini, purtroppo non è un materiale indiziario che si possa tenere presente in ambito giuridico, però il nostro amico Calogero che cosa ci ha dimostrato? Di essere un attento osservatore. E vedere questi aspetti, perché ci sono degli aspetti molto evidenti, il rossore, il pallore, la sudorazione, ma ci sono altri aspetti che invece sfuggono perché partono dall'inconscio. Professore Cavedini, vogliamo parlare anche di questi gesti che ci tocca fare per stare tranquilli, perché se no non si dorme se le pantofole non sono messe belle vicine, non riusciamo ad andare al lavoro se non riusciamo a controllare, andiamo su a casa a controllare se abbiamo spento il gas o chiuso la porta, pur sapendo che è chiusa. Vero, innanzitutto diciamo che i nostri comportamenti sono lo specchio dei nostri pensieri, quindi attraverso quello che vediamo negli altri riusciamo anche un po' a capire qual è il pensiero che queste persone hanno. Vedi Nicoletta, questi gesti hanno un significato molto differente se passano dall'essere delle semplici modalità per assicurarsi, per stare un po' tranquillo, quindi una sorta di tentativo di scaricare un po' la tensione attraverso delle piccole ritualizzazioni che più o meno facciamo tutti, fino a dei comportamenti obbligatori e strettamente necessari che facciamo proprio per placare uno stato d'ansia e un marcato disagio. E se questi comportamenti in queste situazioni non vengono messi in atto, provocano fondamentalmente un forte incremento della tensione soggettiva e dell'ansia. Quindi andiamo dal controllare che la porta sia chiusa e il dubbio ci assale anche quando ne siamo convinti e dobbiamo per forza tornare indietro per verificare lo stato di chiusura della porta, di casa, della macchina, a piccole ritualizzazioni tipo mettere gli oggetti in ordine, in simmetria, secondo schemi che nella nostra testa hanno significato tranquillizzante. 800 24 00 24 se volete segnalarci il gesto che in qualche modo vi ossessiona, posso dire così, ma intanto ci aspetta Maria Teresa che ci chiama da Bergamo. Buongiorno Maria Teresa, benvenuta, grazie. Pronto, buongiorno. Eccoci grazie qua. Per avermi chiamato, complimenti. Io volevo testimoniare la mia esperienza essendo un insegnante di scuola materna. Sì. E volevo testimoniare l'importanza appunto del linguaggio del corpo, soprattutto nei confronti dei bambini, e attraverso il quale appunto si comprende il loro carattere e si entra in comunicazione con loro ancor più delle parole. Anche per l'apprendimento questo è molto importante. Assolutamente. E poi volevo anche testimoniare l'importanza, mi capita anche per strada, magari regalare un sorriso, uno sguardo a una persona anziana, o a un bambino senza neanche parlare, senza neanche conoscerli, sì, e ricevere da loro la stessa testimonianza, oppure... Assolutamente, perché si instaura subito quella sorta di feeling, mi sei simpatico, capita anche nei mezzi pubblici, per strada, due persone si incontrano, si guardano e il sorriso va su, gli zigomi si sollevano, ecco, vuol dire mi piaci è una parola che Andrea possiamo associare ad un piatto. In cucina direi che la parola fondamentale, mi piace guardarlo, mi piace annusarlo, mi piace mangiarlo, e a mio parere è proprio questa la ricerca che dobbiamo fare in cucina, qualcosa che sia bello da guardare e poi da mangiare chiaramente, e una cucina solare, perché come il sorriso che diamo gratuito alle persone che ci incontrano, uguale, il nostro piatto deve, poi noi siamo nel Mediterraneo, siamo italiani, quindi abbiamo questi gusti fantastici, anche un'insalata semplice, se la fate con una foglia croccante, con il pomodoro in stagione, con le verdure proprio che cominciano adesso, queste fantastiche verdure primaverili, gli asparagi, i piselli, le fave, i colori e i sapori che fanno sorridere, che fanno stare bene. Quindi possiamo puntare ad esempio, a proposito di gesti, ad abbinare delle verdure, certo, Nico, delle foglie croccanti. Ci sono dei gesti in cucina, l'esempio è sbianchire, gesto e parola che si abbina molto bene, che poi spiegheremo, racconteremo. Grazie a voi che siete intervenuti, a Filippo Aureggi, regia la parte tecnica, a Laura Vanossi in redazione, al professor Padrini, al professor Cavedini, al nostro amico Andrea Ribaldone. Per oggi è tutto, vi aspetto domani. Essere e benessere.